Ma aspetta, cioè, perché visto che stavate affrontando l'argomento della cultura pop, non si ritorna all'argomento originale, si parla dell'apocalisse nella cultura pop, delle varie correnti che attraversano l'immaginario a livello musicale, letterario, quello che è. Cioè, il dibattito, per carità, non era per troncare. No, ha fatto bene. Italiana è interessante. Secondo me. Però io sono venuto apposta proprio. Il libro. Questo io mi premevo. Il libro che ha creato già un sacco a livello letterario di gli epigoni è La strada di McCarthy, adesso. Perché? Sono delle fan sulla sinistra. È uscito, adesso esce il film fra pochissimo. Ho visto le prime immagini e sembra strepitoso. Però vabbè, il 28 maggio esce. Vabbè. Di chi? Con chi ti posso dire? No. Mica c'è Pico Morto, se mica bibole, no. Esce adesso, ma in realtà c'è un italiano. Un australiano, un giovine. Comunque, ha già fatto. Ha aperto un nuovo tipo di immaginario, secondo me. È uscito un romanzo che si chiama L'uomo verticale di Longo, che secondo me partiva da dei presupposti molto simili a quelli della strada, molto belli, però la seconda parte del libro purtroppo non rispettava le attese, perché finiva in un Mad Max, cioè con gente che cerca la benzina, gruppi di predoni che sputano fuoco, per quella roba lì l'abbiamo già vista, quindi anni 80. Esatto, anni 80, perfetto, perché visto che parlavamo di immaginari, ci riconosciamo in questo percorso, anni 80, invece la strada no, la strada è un immaginario inedito, secondo me lui apre un nuovo percorso, allora su questo devo parlare del mio nuovo romanzo. Che è lì, ed è volgarmente preso dalla strada, ovviamente le pulsioni nascono dalla lettura di McCarthy, però poi si cambia tutto perché se quello della strada è un percorso tipicamente statunitense, perché comunque è un percorso verso qualcosa che ricorda un po' anche il West, cioè la direzione verso il mare che è tipicamente della cultura americana, il mio libro che è sempre un rapporto fra un anziano, un cinquantenne e una giovane, però è un percorso di attese. C'è un nemico alle porte che deve arrivare, non arriva mai, e c'è sempre un'attesa in questa comunità in montagna isolata, dove però la natura non è completamente devastata come la strada, ma è rigogliosa, perché io l'apocalisse me la vedo così. Io penso che l'uomo arretri e ritorni tutto il resto, ritorni la natura, ritornano altre bestie, ritornano ciò che c'era prima. Se potete pensare al progresso, la storia del mondo che si parla di milioni, di migliaia di milioni di anni, noi siamo qua da 10.000, cioè faranno presto dimenticarci, ecco, quindi io credo che l'apocalisse si vedrà con l'arretramento dell'uomo e ritornano altre forze naturali e altri, e prima però durante questo arretramento dell'uomo ritorneranno anche gli arcaismi dell'uomo, quindi il suo rapporto con la natura, la forza, il fuoco, la terra, ovviamente sono tutte argomenti di estrema destra, però quando uno fa il giro a destra poi si ritrova a sinistra, è sempre così, cioè mi piace questa, grazie, missione di corso, sì, proprio un rapporto col territorio, con i miti arcaici, con la superstizione, c'è la madre terra, la grande madre, quindi la natura eccetera, è assolutamente antirazionalista, antipositivista, ma c'è anche l'ecopacifismo che non è, infatti si ricollega a quelle cose, si ricollega a quelle cose lì, anche perché io penso che le nuove forme di aggregazione politica identitaria a sinistra devono abbandonare con forza e coraggio il marxismo e il pensiero positivista dal quale il marxismo nasce. Con questo cacciatemi pure, tanto peso 100 kg. No, vabbè. Però dici qualcosa di più, cioè nel senso adesso hai detto lui. No, lui poi dopo il suo turno. Allora, c'hai definito l'orizzonte all'interno in cui si svolge il tuo libro? No, è una comunità isolata nel quale ti dirò mai di più, io un anno che ti rompo i coglioni questa cosa della comunità isolata, isolano e succedono delle cose, c'è un nemico alle porte che però non dico praticamente niente neanche nel libro, figura, non si sa cosa è successo, non si, però la strada questo insegna, cioè la strada non ti dice niente, la strada non ti dice niente, questo è bello, perché quando svegli la sciagura, non esiste più la sciagura, come quando tu aspetti gli alieni che arrivano, arrivano gli alieni e dici ma sti babbi qua tanto vale che stavamo a casa, no? Infatti non bisogna far vedere le cose, in narrativa ancora peggio che al cinema, no, fagliene immaginare, tu racconta, esatto, e poi stanno lì a casa e dicono chissà com'è. Invece che le fai vedere ed è un disastro, lo stesso uomo il verticale, arrivi e dici ma cosa sarà successo nel nord Italia, ma cosa è successo? Poi ti spiego cosa è successo e dici ma come sta cagata qua, ma non potevano intervenire armati eccetera, quattro pirla col camioncino, quella cosa, in sei mesi diventano tutti neotribalisti, ma cos'è? Ma io gli ho detto a Longo, e mi fa sì, non sapevo come finire, ma non lo so, però in realtà lo finisce benissimo. Perché non so se chi l'abbia letto, no, però il finale è splendido, quest'isola qua. Il finale è tutto la parte centrale che dici ma va pianta il vecchio. Ma vabbè. La scena. Poi di cosa all'orizzonte su cui sono d'accordo che ha delineato lui parlando di McCarthy e della strada. Cioè che noi abbiamo avuto, noi, ci sono stati 15-20 anni all'interno del quale l'orizzonte apocalisse è stato monopolizzato dal concetto di cyberpunk, cioè dall'84 fino al 2000 la questione apocalisse si è giocata tutta sui temi del cyberpunk. Però guarda che io non credo che il cyberpunk avesse un orizzonte apocalissico, perché aveva un orizzonte positivo, cercavano che questa unione tra scienza e macchina e uomo potesse creare anche nuove tipo di Stevenson, certo. Tanti percorsi, cioè, all'interno sicuramente. Allora, non tanto un orizzonte apocalittico, diciamo un orizzonte di futuri possibili, cioè, ecco, dettato dal tema cyberpunk, con romanzi come La strada post 2000, che sono proprio degli anni zero appunto, si riprende quelle che sono tematiche precedenti. No, ma poi c'è un altro grande romanzo, cioè, secondo me però quello è mio, Uomo al zombie, ma qui siamo di una... Secondo me McCarthy, il suo più grande antesignano è Jack London, sì, che a me ricorda... Ma perché è molto americano, come diceva all'inizio, lui è molto americano, cioè questa idea anche, questa grande eticità, che poi è eticità per loro, ma a me no, per me no, perché sono europeo. Come è il richiamo della foresta, la strada. Esatto, la sì. In questo poi senso, questa dicotomia fra male e bene così secca sempre, cioè è quasi manichea, senza nessun tipo di... cioè arrivano i cannibali, sono proprio cannibali, cioè non è che hanno delle vie di mezzo, quando apre trova la dispensa, cioè la forza di McCarthy sta anche nella sua ingenuità. Infatti in romanzi tipo Satri o altri è molto più debole. Però sono evocati, però non ci sono mai né più buoni né cattivi. No, beh, però sono delle immagini significative, quando lui vede questo predore che è pezzo di carne umana nei denti, cioè lo vede, cioè, è troppo cattivo anche per un film, però lui è così, la forza. Ma non è Delillo, cioè in Delillo, esatto, ci sono mille sfumature, lui è il mercato, E poi è bella l'idea del carrello. Carrello vuoto finalmente, non c'è più niente. Esatto, no, vabbè, questo non penso sia stato casuale di questo carrello per elemento vuoto. No, non ci mancherebbe. Ma vai parlare a lui di World War Z, che è lì che ecco, giusto per ricordare, questo è proprio un salto di orizzonte, sì, rispetto a quello che era il mondo del cyberpunk. Qui siamo ancora completamente dentro l'orizzonte cyberpunk. Anche secondo me. Ma infatti Agenzia X non è un caso. World War Zombie, vada, si diverta. No, ma in realtà è stata una scoperta recente e sorprendente. Il figlio di Mel Brooks, che si chiama Max Brooks, dal quale ci si poteva aspettare di tutto, ma sicuramente non una cosa del genere, essendo figlio di Cotantopad, ha scritto il romanzo apocalittico per eccellenza per quanto mi riguarda, non che non ami McCarthy, ma quello è stato veramente un romanzo che mi ha sconvolto la vita, che si chiama World War Zombie. Detto così dice che cos'è? La guerra mondiale degli zombie, bella cagata, invece no. No, io per far leggere quel libro dicevo, leggi questo libro del figlio di Mel Brooks che si chiama La guerra mondiale degli zombie, e tutti, ma va a cagare, lo dovevi regalare, dovevi... Seven Sisters, è bellissimo, è bello. No, è un libro straordinario, perché in realtà gli zombie sono solo un pretesto per vedere come reagisce l'animo umano di fronte all'apocalisse, appunto. Ma come lo sono in Romero, voglio dire, sì, no? Siamo a livello antropologico, perché in ogni regione del mondo, esatto, il concetto è non solo più un punto di vista incentrato sull'America, ma un punto di vista finalmente globale, dove si va a vedere come reagisce per esempio di fronte all'epidemia Israele. È una cosa interessante, perché c'è un'analisi geopolitica che ti porta a dire che Israele si chiude in una quarantena volontaria, rinuncia ai territori conquistati. È una scelta, è una scelta in qualche modo politica e di lettura della mondo. Si fa entrare gli arabi, però. Sì, sì, sì. Infatti. Questo, la reazione della Cina, non vorrei raccontare troppo sul libro perché è uno di quelli che veramente consiglio di leggere all'infinito. Però è stato, per quanto mi riguarda, una possibilità di sguardo altro sul futuro. Cioè, dopo l'epoca Mad Max, in cui davvero si immaginava solo che il mondo dopo l'atomico, esatto, dopo l'atomica, sarebbe stato un mondo popolato dagli scarafaggi, che erano gli unici che riuscivano a sopravvivere, e quei quattro disperati che sopravvivevano avrebbero dovuto arrabattarsi. Nel modo in cui abbiamo visto in centinaia di pellicole, in realtà non è l'opzione più probabile, perché per esempio c'è un pezzo interessantissimo in World War Zombie sulla riconversione dei colletti bianchi, dove dice sì, quando il mondo finisce anche il concetto di economia di base cambia completamente. Di fronte alla necessità di badare a se stessi, ancora una volta i migranti o coloro che erano abituati a vivere di espedienti sono quelli che se la cavano meglio, perché sanno vivere con 1000 lire. I colletti bianchi sono vittima di una sindrome da stress post-traumatico, c'è cioè una percentuale altissima di suicidi, non sanno come dare un senso alla propria vita, e paradossalmente i ruoli si ribaltano. Sono proprio magari le colf o che ne so, gli idraulici che insegnano ai colletti bianchi come si sopravvive. C'è un pezzo stupendo in cui dice è un'economia completamente schizofrenica, dove c'erano quartieri popolati da gente che viveva firmando contratti o in qualche modo alimentando una produzione che gli permetteva di guadagnare dei soldi, che spendevano per sostituire una finestra, ma per farla sostituire quella finestra dovevano chiamare una persona che viveva a 3 sobborghi di distanza e che in qualche modo viveva di espediente. Cioè, questo libro secondo me ha cambiato completamente il modo di vedere la società di fronte alla crisi, di fronte all'apocalisse, ed è stata l'ispirazione fondamentale per il mio nuovo romanzo. Io ho ragionato molto più in piccolo, ho ragionato, c'è un racconto per nazioni in World War Zombie, grosso modo, anche se poi ci sono sempre più racconti americani che esteri, però io ho ragionato pensando a un racconto resistente per regione di fronte all'apocalisse, quindi la resistenza al nord è molto diversa dalla resistenza al sud, perché sono diverse le risorse, perché sono diverse il tipo di lavoro che fa la gente, il modo in cui si raffronta, cioè si raffronta alle difficoltà, eccetera. Ecco, in questo senso due romanzi che hanno rivoluzionato l'apocalisse contemporanea sono stati di ispirazione. Io però ho una domanda a Simone. In World War Z una cosa significativa anche a livello di struttura narrativa è che l'espediente per quale vengono raccontate tutte queste storie a livello globale è che c'è un ricercatore universitario, un ricercatore che vuole descrivere, vuole raccontare la guerra civile degli zombie, la guerra civile mondiale contro gli zombie, e inizia una serie di interviste in tutto il mondo, intervistando i protagonisti di questa guerra, che parlano in prima persona, ricordando quello che è successo nelle varie zone, quindi come diceva lui, Israele, Sudafrica, Cina, Russia, in particolare della Corea del Nord non si sa niente, non si sa cosa è successo, cioè nessuno sa niente. Quella è la scelta, esatto. Di un'atomica del... Allora lì, diciamo, la scelta che fa Max Brooks è di dire che praticamente il discorso lo fa un analista politico e dice ma noi sì, insomma, ci aspettavamo i missili, ci aspettavamo le atomiche, hanno fatto test per tanti anni, il principio su cui ho basato United We Stand e tutta la mia mitologia. Sapevamo che loro vivevano, la loro vita era strutturata per annientarci, per annientare la Corea del Sud, è un coreano del Sud che parla, in caso di nel caso la guerra fosse scoppiata. Dal giorno zero della guerra mondiale degli zombie pare che i coreani del nord si siano ritirati in questa città di bunker che pare esista sotto Pyongyang. Le ipotesi sono mille, ma perché? Le ipotesi sono che siano ritirati di sotto e vivano felici, siano ritirati di sotto e sia pieno di zombie, che siano pronti a scagliare l'attacco definitivo contro il mondo. In realtà questo riflette solo l'incapacità analitica dell'Occidente nei confronti della Corea del Nord. E anche però il fatto che in una guerra mondiale dei zombie dopo un po' la gente di quello che fosse successo in Corea del Nord non gliene poteva fregare. Molto più prosaicamente. Anche perché erano rimasti molto pochi. Però la domanda che volevo farti è come fai tu a creare un collante, cioè, d'artificio narrativo, perché poi parliamo di finzioni qua in narrativa, di Brooks, è quello della ricerca di questo studioso che gira il mondo. Tu come colleghi tutte le storie? Ma in realtà io sono estremamente debitore di Brooks, tant'è che anche nel mio nuovo libro c'è un sopravvissuto che a guerra finita vuole andare a caccia delle storie resistenti, di conseguenza percorre l'Italia da nord a sud. Come? Qui. Adesso lo chiamano debitore, un tempo sarebbe chiamato plagio. A discapito a discapito della ruberia. È una sperequazione fra plagio e debito. A discapito della ruberia ci metto qualcosa in più, nel senso che tutte le volte che gratti devi lasciare giù almeno un 10 euro, sei veramente un miserabile. Ho fatto quello che Brooks non ha fatto, perché non gli andava di farlo, forse perché era meglio così, non lo so, deciderà chi leggerà il romanzo. Ho caratterizzato il mio narratore, mentre nel suo libro il narratore scompare completamente, che dice che l'unico fattore umano che non deve comparire in questa enciclopedia dell'umanità è proprio quella del narratore, la voce del narratore. Io l'ho fatta sentire e l'ho fatto evolvere durante il viaggio. E gli ho fatto anche ricercare qualcuno, che però non vi dico chi è, se no adesso mancano 7 mesi all'edizione, già vi passa la voglia di andarlo a comprare.